Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza, impariamo a volerci bene questo Radio Week World. Io sono Elisa Pasquini e vi ho condotto nel meraviglioso mondo dei fiori e dei cristalli e nelle scorse puntate avevamo iniziato invece a parlare di benessere animale, sia per quanto riguarda i fiori che con il confronto fra il T-Touch e il Reiki. Oggi vorrei andare avanti con voi e parlarvi un po' più nel dettaglio dei trattamenti Reiki per gli animali. Ma prima di entrare nel dettaglio, vi vorrei leggere un aforisma di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Ma dunque, perché gli animali si ammalano? Gli animali, vivendo a stretto contatto con l'uomo, si ammalano spesso anche delle sue stesse malattie, però rispondono rapidamente alla terapia della medicina alternativa. Essi vivono nel mondo dell'energia, non a caso sono i primi a sentire l'arrivo di catastrofi naturali o a captare i cambiamenti di umore del proprietario. Tutto ciò rende gli animali molto sensibili al Reiki, dolce tecnica non invasiva. Reiki è molto efficace sugli animali, ovviamente questa disciplina va applicata a scopo preventivo o di supporto alle terapie veterinarie, di cui non si può prescindere. In caso di malattia, il primo intervento è consigliato quello di una buona diagnosi fatta dal medico veterinario. In seguito sarà possibile intervenire con trattamenti Reiki. Cosa fa l'operatore Reiki quando tratta un animale con il Reiki? Quando si inizia a trattare gli animali con il Reiki è fondamentale entrare in sintonia con loro, anche se sono molto intuitivi e sanno quale intenzione li stiamo avvicinando. Animali grandi, medi o piccini, le mani dell'operatore ben si adattano a ogni dimensione. Di solito i nostri amici accolgono volentieri e con riconoscenza i Reiki. Non sono ostacolati dall'intelletto, comprendono subito e sentono velocemente le nostre mani che trasmettono l'energia d'amore. Sanno che emaniamo qualcosa di molto speciale. L'operatore tenta di avvicinare l'animale con calma. Se è la prima volta che lo vede, chiederà il permesso e spiegherà chi è e che cosa fa. Poi attende la risposta a un segnale d'apertura. Successivamente inizia a posare dolcemente le sue mani sull'animale con tranquillità. In ogni caso, saranno sempre loro a decidere se è il momento adatto per ricevere un trattamento Reiki e stabilire la durata dello stesso trattamento. I gatti sono animali domestici che meglio percepiscono l'energia, sentono e vedono l'energia, per questo motivo particolarmente sensibili al Reiki e lo ricevono molto volentieri. Gli animali preferiscono ricevere Reiki negli ambienti dove vivono perché riescono a rilassarsi meglio. Quindi l'operatore di solito fa trattamenti Reiki nell'habitat dell'animale. L'operatore, per comprendere dove gradiscono e richiedono Reiki, osserva i vari segnali che un animale emette nel corso del trattamento e usa l'intuito. Considera come si rivolge verso le sue mani, di solito sono gli stessi a segnalare dove desiderano ricevere Reiki, anche muovendosi continuamente, in modo che le mani siano posizionate dove necessario. Nelle situazioni in cui l'animale non approva il contatto diretto con le mani, l'operatore esegue il trattamento tenendo le distanze dal corpo. Alcuni animali accettano con piacere il Reiki nelle stesse posizioni in cui ricevono le coccole e rimangono distesi a riceverlo. Scelgono la posizione. Se essere trattati sul pavimento, sul giardino, stesi sul tappeto, sul divano o sulle nostre ginocchia. Reiki lavora sul corpo, sullo spirito e sull'anima. Per questo motivo un trattamento è un toccasana per l'animale che ha subito abusi, anche se inizialmente non vorrà essere toccato. In simili casi ci si avvicina all'animale, esprimendoci dolcemente e provando ad accarezzarlo e a trattarlo con movimenti lenti e rassicuranti. Solitamente gli animali amano essere trattati dietro le orecchie, sulla testa, sopra gli occhi, sotto il mento, ma anche sulla pancia. L'operatore massaggia lentamente e dolcemente la zona del collo, tra la testa e le spalle. Durante il trattamento l'animale si abbandona all'energia e improvvisamente, quando ne hanno più bisogno, si alzano e se ne vanno. Ogni animale è unico ed ha le sue preferenze. La mia canina, per esempio, non apprezza molto il Reiki e quando mi avvicino per fare un trattamento si concede a me per 5 minuti. Allora invece quando faccio l'autotrattamento, allora si mette fra le mie gambe e si gode mezz'ora di Reiki. Vale a capire. L'altro mio cane, il canile idem, però accetta molto volentieri il trattamento a distanza che gli faccio da casa, e alla sua gabbia. È possibile trattare anche i pesciolini nell'acquario, posando direttamente le mani sull'acquario, sul recipiente, però bisogna stare attenti perché, essendo animali piccoli, ricevono un sacco di energia, quindi va fatto il lavoro per pochi minuti. La parola d'ordine del Reiki sono osare, sperimentare e seguire l'intuito. Il Reiki può essere praticato sugli animali in caso di malattie, lesioni, ferite, dolori, poiché apporta sollievo, calma la paura e l'ansia, specialmente nelle situazioni in cui è necessario accompagnare l'animale verso la morte. Animali feriti e malati possono essere trattati inizialmente con 4 trattamenti consecutivi o quelli che si ritiene necessario, ascoltando le nostre sensazioni, ed in seguito alcune volte a settimana, fino al miglioramento dell'animale, se è possibile, conclude il trattamento con una leggera carezza. Gli animali possono essere trattati anche a distanza, come dicevo, nelle malattie gravi è preferibile trattarli con costanza per almeno 21 giorni consecutivi. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per essermi stata ad ascoltare e prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti. Il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono Francesca 340-23-45340, Franco 329-89-669 ed Isa 339-3860-123, la nostra pagina Facebook Energica Mente. E per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, vi auguro un buon weekend, ringrazio Radio Big World e Davide Giorgio per la calorosa collaborazione e vi aspetto.